Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati con questa nuova puntata dal mondo della scuola. Mirko Cavallini studio e di Daici in regia con un ospite che è il vicepresidente regionale dell'Associazione Maestri Cattolici, Adriano Dotto. Bentrovato. Grazie a voi. Ti ritroviamo, Adriano, ci avevamo sentiti poco prima di Natale per presentare il 20° congresso nazionale della vostra associazione sul tema Salviamo la scuola, l'impegno di tutti per il futuro del paese. Ecco, già hai detto tutto in pratica, ma devo riassumere un attimino quelle che sono state le vicende dell'associazione. Praticamente a livello associativo, sezionale e poi provinciale, in tutte le province del Veneto, ecco, e c'è stata poi una proiezione chiaramente regionale, da cui io, presidente provinciale di Treviso, ecco, ne sono uscito proprio per regolamento, per statuto, ecco, quindi oggi al mio posto c'è una donna, ecco, rinancio questo. Le quote rosa. Le quote rosa, bravissimo. La dottoressa Stefania Delesto è la presidente nostra di Castelfranco Veneto. Con me lei è in consiglio regionale. Io appunto sono diventato vicepresidente regionale. E avevo, lo dico proprio, lo confesso come un cristiano davanti al confessore. Avrei preferito lasciare tutto, nel senso di, avendo una certa età, e invece mi ritrovo coinvolto in una carica che chiaramente mi pone alcuni problemi, alcuni impegni che farò comunque e eseguirò certamente per la Chiesa, all'interno della Chiesa, all'interno dell'Associazione Maestri Cattolici. Ecco, torniamo appunto all'appuntamento di inizio gennaio. Nel corso delle vacanze, dal 3 al 5 vi siete incontrati, sì, esatto, a Roma. Ne è uscito un documento programmatico che abbiamo qui sotto mano, che cerchiamo di scorrere nei punti, certo, principali. Certo, senza dubbio. Allora noi, il titolo è chiaramente, l'hai già letto ed è Il Salviamo per la Scuola. Ma qua è una strategia. È la strategia che è un impegno, il sottotitolo dice questo, l'impegno di tutti e il futuro del paese. E penso che Blaimic abbia intravisto, e ricordo ancora dal 1946, quando si parlava dell'impegno sul fanciullo, quindi ecco, capiamo queste cose. È sempre una continuità educativa che l'Associazione Maestri Cattolici Italiana sta facendo. Significa condividere, conoscere, capire la famiglia e poi chiaramente nella scuola tradurre attraverso degli interventi didattici, educativi didattici, direi, ecco così, quello che sono state allora le necessità. Ricordo il maestro Manzi, tanto per dire, in televisione. Qualcuno l'ha conosciuto tramite la fiction, esatto, qualche settimana, esatto, fa. Esatto, e poi la ultima fiction, molto molto interessante, molto bella. Direi, ecco, l'Italia è riuscita a tradurre da una situazione di analfabilità, diciamo così, la capacità di poter conoscere, leggere, capire, comprendere, e adesso comprendere anche i mass media nuovi, perché tutto questo processo è un processo molto utile, molto bello. Quindi salvare la scuola occorre anche andare indietro, occorre significare anche tutti quelli che sono stati i processi evolutivi di un intervento governativo, sociale, direi associativo a questo punto, perché l'AIMIC è stato protagonista di questo processo di evoluzione a livello scolastico. Dicevi il 46, ancora non c'era la Costituzione della Repubblica, nel 46. Quindi. Ma nella Costituzione si ritrovano i valori. Poi queste persone che si sono impegnate nella scuola. Posso anche dire oggi che per la prima volta nel, diciamo così, nelle astrazioni governative, vedo nel, in quello che il dottor Renzi ha detto, un primo impegno per la scuola. Quando mai è stata data priorità alla scuola? Per conto mio ha ragione Renzi, ma non ha ragione Renzi come persona, ha ragione la società nel dire che la scuola è la base di costruzione di una società, lo stare insieme per andare avanti e per formare comunità. Perché la comunità, andiamo in Africa, ma con tutte le nostre attività anche cristiane, no? Cattoliche, cos'è che si fa per la prima cosa? Una baracca, la scuola, la chiesa, ecco, attorno alla chiesa, alla scuola nasce comunità, si fa comunità. E l'AIMT vuol far questo, vuol far questo perché attorno alla chiesa e alla scuola i maestri cattolici e anche i non cattolici, per carità, non c'è distinzione, crescano insieme per dare, per soddisfare le esigenze della gente, dei bambini, della famiglia e chiaramente poi della società in genere. Per quello che si dice il bene comune. Facciamo una prima pausa e poi ancora insieme con Adriano Dotto. Dal mondo della scuola. Complicazioni se non sei qui da me, guardando dentro spero a descriverti perché adesso tu mi servi e ci sarai. Sempre. dal mondo della scuola. Programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola, insieme ad Adriano Dotto dell'Associazione Maestri Cattolici, che ha celebrato il suo congresso nazionale all'inizio di gennaio, quando ancora c'era il governo Letta, e poi le cose sono cambiate nel frattempo. Il paese, insomma, ce l'avete dentro nel il futuro del paese, proprio nello slogan di questo congresso. Leggo da pagina 6 del documento: la scuola italiana statale e paritaria svolge la funzione pubblica assegnata dalla Costituzione per la formazione di ogni persona e la crescita del paese. È quello che dicevamo poco fa. Continuiamo a sviluppare, Adriano. Ma certamente, guarda, il problema di scuola, ecco, statale e non statale, paritaria. Io penso che l'impegno, ecco, qui l'impegno dei vescovi della CEI è quello di nostri prossimi, diciamo, 9 anni, 10 anni, era all'inizio, ormai cominciamo a... Dobbiamo impegnarci, tutti, a livello di CEI, di tutte le conferenze, diciamo così, regionali, Triveneta, per esempio, molto apprezzata la nostra... presenza triveneta anche a livello nazionale, quando si fanno delle proposte per la costruzione della scuola. La scuola è la scuola, che poi sia statale o sia paritaria, chiaramente hanno entrambe le loro dimensioni, però dobbiamo contare, fare un discorso di numeri e dire che cosa? Di mezzo c'è il bambino, di mezzo c'è l'educazione, di mezzo c'è ciò che io, scuola, in qualsiasi caso propongo alla società. Quindi la famiglia ha tutta la libertà di fare una scelta cattolica, paritaria, statale. Certo, devono essere garantite comunque delle clausole ben precise. L'educazione. L'educazione è uguale per tutti. Per tutti. Quella cristiana, per quanto riguarda la scuola paritaria, io penso di sì. Per quanto riguarda la scuola statale, altrettanto. Perché all'interno di quella statale ci sono tantissime altre religioni e presenze di culture diverse, di fronte al quale l'insegnante, maestro, professore, docente universitario, non può farne a meno di considerare il peso, di considerarne il peso. Deve chiaramente valutare e quindi coltivare insieme. Certo, ci sono delle difficoltà di carattere organizzativo probabilmente all'interno della scuola, certo, ma concreto noi dovremo, come scuola, chiaramente dare delle risposte, uso termine paritarie, nel senso proprio di consegnare ad ognuno dei nostri discenti o diciamo alunni delle capacità di competenze, conoscenze, obiettivi, in modo che tutti abbiano gli stessi diritti. Prima citavi, l'hai citato tu, il governo Renzi con i suoi primi provvedimenti, il fatto di essere andati come prima tappa in visita in una scuola, è proprio in Veneto, a Treviso, c'è Renzi, c'è il ministro Giannini dell'istruzione, sì, quello del lavoro Poletti. Il ministro Giannini poi è tornata in Veneto a Padova per altre visite che non siano solo atti formali, ma corrispondono poi ad atti di sostanza. Tra gli atti di sostanza, i primi provvedimenti riguardano le strutture, i mattoni, perché anche quelle hanno bisogno, ovviamente. Tu citavi l'Africa prima, la prima si costruisce, ma fisicamente, perfetto, anche serve un luogo, da qualcosa bisognava partire. Senza dubbio. Io sono convinto che la partenza, diciamo così, che questo governo ha fatto sia positiva, cioè ha visto un attimino, forse senza forse, le cose nelle loro debolezze. La debolezza qual era? Nella scuola, chiaramente stiamo parlando di scuola, non parlo di economy, ma parlo di scuola, certo. Il punto primo è il discorso dell'edilizia scolastica. L'edilizia scolastica ha tante lacune e lo sappiamo che nel Veneto, ma non nel Veneto, parlo anche di addirittura a livello nazionale, forse molto peggio, per mie conoscenze di esperienza come consigliere nazionale dell'AMC, io ho conosciuto le realtà della Campania, della Sicilia, del sud, diciamo così, e da dove le scuole non sono situate in un edificio scolastico come l'abbiamo noi. Io direi anche questo, con molta serietà. Sono ospitate in case, caseggiati e via dicendo, no. Noi siamo, come Veneto, siamo fortunati, abbiamo già una realtà ben precisa, per grazie di Dio, da parte dei nostri, diciamo, operatori politici, abbiamo comunque anche noi delle esigenze particolari. E la ristrutturazione dei plessi è uno dei motivi più importanti, perché noi mandiamo a scuola i nostri figli laddove, ecco, c'è pericolo. Allora, laddove c'è pericolo dobbiamo politicamente, civilmente, diciamo così, affrontare i problemi. Non possiamo tirarci indietro, perché poi si dice, no, quando scappa il morto, ecco. Allora, se nel Veneto o nel Triveneto ci fossero delle situazioni così, segnalare questo, e penso che sia stato, anzi è già stato fatto, alla prefettura e vi dicendo, agli organismi scolastici, perché si possa quanto prima approfittare di questa situazione, per quanto è stato fatto e dichiarato ieri. Il patto di stabilità permetterà probabilmente anche da noi nel Triveneto di andare incontro a delle esigenze particolari. Io finalmente, perché io mando a scuola mio figlio e mia figlia laddove ritengo un bel ambiente, però se nell'ambiente c'è precarietà, io, ecco, comincio come cittadino a preoccuparmi e a dire grazie a chi invece investe per sistemare. Ultima pausa, ancora insieme tra poco. Dal mondo della scuola. I'm so tired of falling in love, finding it easier to fall out. I can't deny it. I feel it inside, I'll keep its fire. Oh, you can't hide. I'm falling in love again. Ain't nothing I can do, falling in love again. And this time it's with you. When I fall, it's always the same. And I'm so tired of playing this game. Been so long now since I gave up my heart. I've kept it locked down, I don't wanna get it hard. So let me tell you now, I just wanna be sure that you won't hurt me. Or can you promise me that? Falling in love again, ain't nothing I can do. Falling in love again, girl, this time it's with you. When I fall, it's always the same. Gotta tell me if you're gonna break my heart, 'cause I don't wanna take the chance. And if it ain't true, all it's gonna be is nothing but a poor romance. So give me that prompt to hold on and never let you go. I gotta have something to go on, oh, I'm letting you know now. Falling in love again, ain't nothing I can do. Falling in love again, girl, this time with you. When Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola con Adriano Dotto, vicepresidente dell'AIMC per il Veneto e anche con qualche legame nazionale a Roma. Parlavi poco fa delle strutture, è vero che ci sono i progetti educativi, i piani formativi, ma ci sono le strutture. In quale modo la struttura può aiutare il percorso educativo? Perché un conto è fare lezione in una stanza e basta, un conto è fare lezione in una struttura che è pensata anche per le attività didattiche. Questa è una provocazione. Una domanda non poi. È una provocazione, nel senso che non ci siamo messi d'accordo, questo lo posso dire tranquillamente. Allora, non indico la situazione, ma dico la problematica. Laddove non c'è... Sono problemi a me cari, carissimi perché mi impegnano anche personalmente. Laddove non c'è una struttura che mi dice manca lo spazio per la palestra, manca lo spazio per la persona disabile. Ecco, queste sono problematiche grossissime. Cioè noi dobbiamo pensare che ogni bambino, ogni ragazzo che mandiamo a scuola sia garantito di queste situazioni. Cioè non possiamo mandare a scuola un bambino in precarietà. Parlo per il Veneto, Triveneto, siamo, ripeto, siamo fortunati. Dobbiamo mandare a scuola dei bambini in luoghi in cui ci siano le strutture garantite e adeguate. Stato, adeguate e dal comune soprattutto, chiaramente appunto, alcuni comuni giustamente col patto di stabilità evidentemente si è fermato e forse voleva far di più. Ecco, io imploro, spero che la cosa vada a concretizzarsi dopo quello che è successo ieri l'altro, che i comuni che abbiano diciamo così voluto, già stabilito, probabilmente programmato alcune strutture all'interno del loro vivere, perché è il vivere locale, dove la conoscono i sindaci, gli assessori, gli dicendo, ecco, si possa dire bene, si può andare avanti per soddisfare le esigenze perché altrimenti chiaramente da Roma non si possono conoscere le cose di Treviso, di Venezia, di Vicenza, vi dice, e tutta Italia chiaramente. Laddove questo patto di stabilità può sciogliersi, ben venga che i comuni riescano a dar soddisfazione agli abitanti e alle loro esigenze. Torniamo al documento programmatico del congresso dell'inizio di gennaio. In sintesi, i punti salienti delle prospettive che vi siete dati. Ma guarda, le prospettive, guarda, sostenere soprattutto l'importanza della formazione e della formazione educativa. Non c'è nulla da fare, bisogna educare la nostra gente, a cominciare dai bambini, ma io aggiungerei anche socialmente, anche alle famiglie, anche i genitori, anche perché lì c'è un anello molto debole. Io dopo 40 anni di scuola trovo un anello debole, la famiglia di oggi. E qui chiaramente senza imputare a nessuno colpe, ben si intende, necessita che noi come scuola, noi come società, noi come... Boh, diciamo, visto che siamo a livello diciamo ecclesiale, anche come chiesa, ecco, si debba un attimino perseguire appunto queste necessità, che sono la formazione dei genitori, senza dubbio, delle giovani coppie, della famiglia, e poi continuare con la formazione dei ragazzi. Attraverso delle diciamo così presenze ben precise di corsi di formazione, perché è questo che necessita. E noi abbiamo, io esamino nella scuola e vedo nella scuola difficoltà in famiglia che dicono: io non so più che cosa fare con mio figlio. No, io devo essere in grado, la traduzione, di sapere cosa di sapere come fare ad educare mio figlio. E questa è l'importanza. Poi io non dico consegno, ma affido alla scuola la continuazione. Ma la partenza è la famiglia. La partenza è la famiglia. È la famiglia che deve essere solida, consolidata. E qua il discorso grosso. Mentre troviamo, rispetto al passato, della fragilità. Allora, quindi io consegno alla scuola e consegno con fiducia, questo è importante, con fiducia alla scuola per la fase educativa che continua e didattica e diciamo formativa dopo, chiaramente, per forza, vale proprio in tutte le età, in tutte le età, sia da parte della scuola, cioè sia dalla scuola primaria e anzi direi prima ancora dalla scuola dell'infanzia e poi nella successiva. Occorre che la famiglia, quindi i due coniugi, e quindi io li chiamo così ancora coniugi, abbiano la responsabilità di seguire la maturità, la crescita del figlio. Non a compartimenti stagni, ma insieme. Grazie Adriano per questa tua, come sempre, appassionata presenza e buon lavoro in associazione. Grazie ancora. Ringraziamo Eddie Daici in regia, voi tutti per averci seguito, bluradioveneto.it per ritrovare questa puntata, scaricabile gratuitamente, il resto delle interviste, approfondimenti e notiziari che vi abbiamo proposto nel corso di Primo Piano, che torna domani qualche minuto dopo le 17 per parlare del primo anniversario della morte di Monsignor Nervo, fondatore della Caritas. Poi parleremo di musica, domenica arriva in Veneto Eugenio Finardi per una rassegna importante dal punto di vista musicale e artistico, ma anche dal punto di vista sociale. Poi, come ogni giovedì, domani avremo le anticipazioni dai settimanali diocesani, domani alle 17 e, se volete, al risveglio domattina insieme con Blu Mattino dalle 6:22. Mirko Cavallini in studio, Eddie Daici regia. A tutti buona serata. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.